America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, potevamo immaginare che dal perimetro di Hollywood, di produttori cinematografici come Harvey Weinstein o di attori come Kevin Spacey, ecco, potevamo immaginare che questo perimetro si sarebbe allargato magari ad altri settori, al mondo degli affari, al mondo naturalmente della politica. Ed è proprio dalla politica che un nuovo scandalo sta cambiando il volto del Partito Repubblicano e le prospettive per Donald Trump di imporre un certo numero di suoi candidati. Ecco, ve l'ho inquadrata in questo modo perché lo scandalo, avrete letto sui giornali, che riguarda Roy Moore, un candidato sicuro al seggio senatoriale dell'Alabama, che era stato lasciato libero da Jeff Sessions, nominato al Dipartimento per la Giustizia, dunque c'era questa elezione speciale, beh, a questo punto potrebbe non diventare mai senatore. Sentiamo. The day after Mr. Moore assaulted me, I called the restaurant and I quit my job. I never went back there again. Ecco, qui è la voce di Beverly Young, l'avete sentita, ed è l'ultima accusatrice implacabile di Moore. È stato ieri pomeriggio che si è aggiunta al coro di altre quattro donne che avevano accusato Moore, che oggi ha 70 anni, di averle molestate oltre 30 anni fa. In particolare l'episodio di cui ci ha raccontato Beverly Young Nelson è capitato quando lei aveva 16 anni. Dunque, il contesto qual è? Qui abbiamo un giudice fanatico religioso dell'estrema destra che molestava delle ragazzine. Ecco, questa rivelazione ha portato lo scompiglio all'interno del Partito Repubblicano. E Roy Moore, oggetto dell'accusa, che fa? Sentiamo. Has authority to go into the Constitution and define the word marriage. If we allow federal courts to intrude into the subject of marriage, then they will intrude in the subject of parent and child. Ecco, avete sentito Moore, lui non se ne andrà, parteciperà alle elezioni ed è sicuro che sarà eletto e che andrà a Washington come senatore. Respinge le accuse, dice che sono invenzioni di persone gelose del suo successo, se così si può chiamare, perché Moore era diventato un giudice ed era arrivato addirittura ai vertici della Corte Suprema dello Stato, se non che, pensate, già due volte era stato rimosso dai vertici della Corte Suprema. La prima volta nel 2003 perché aveva rifiutato di rimuovere una targa coi 10 comandamenti dall'edificio della Corte Suprema. La seconda nel 2013 perché aveva rifiutato i matrimoni gay, matrimoni omosessuali, andando in violazione di una importante legge federale per l'emancipazione dei gay, per la possibilità che potessero sposarsi. Ecco, dunque, il personaggio è controverso in partenza. Ora si aggiunge questo elemento e che è successo al Partito Repubblicano? Sentiamo Mitch McConnell, capo della maggioranza repubblicana al Senato. Do you believe these allegations to be true? I believe the women, yes. I think he should step aside. Ecco, qui McConnell dice chiaramente, ho visto le sue dichiarazioni ieri mattina in televisione, guardava negli occhi la telecamera e dice: io credo alle vittime, so che stanno dicendo la verità e chiedo che Roy Moore si ritiri dalla sua candidatura per diventare senatore. Non appartiene Roy Moore al Senato americano dopo aver fatto quello che ha fatto, non è un personaggio che appartiene al Partito Repubblicano. Ecco, accuse pesantissime, ma che riflettono un po' l'umore di tutti i repubblicani, quali temono di esporsi a un disastro l'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni di metà mandato, se dovessero appoggiare la candidatura di un uomo che ha compiuto delle molestie sessuali su delle minorenni. Vi ripeto, Roy Moore nega che questo sia successo, ma sono storie, come dice Mike McConnell, che hanno una loro credibilità. Fin qui la cronaca dei fatti. Delle donne hanno raccontato di essere molestate quando erano minorenni, quando avevano 14-16 anni, da un uomo che vuole diventare senatore dell'Alabama. Mitch McConnell respinge questa sua candidatura, lo invita a ritirarsi. Roy Moore, il candidato, non si ritira, dice che lui non ha compiuto assolutamente niente di male. Ecco, qual è invece il contesto analitico? Il contesto analitico riguarda Steve Bannon. Ricorderete, era un po' l'eminenza grigia dell'amministrazione Trump nei primissimi mesi, le primissime settimane dell'amministrazione. E perché c'entra Steve Bannon? Ma perché è stato Steve Bannon ad aver scelto Roy Moore come candidato per la successione di Sessions. È stato Steve Bannon a dire che quel tipo di candidato è un candidato che fa parte dell'ideologia di Trump e che ci saranno sempre più candidati come lui che riescono a fare presa sull'opinione pubblica e a conquistare dei seggi in Parlamento. Dunque, per Steve Bannon, questa elezione di Roy Moore era chiave perché voleva dimostrare che questi esponenti di questa destra becera volgarona avrebbero potuto farcela bene. Perché? Ma perché rappresentavano il nuovo paradigma che l'elettore americano sta cercando, così come ha eletto Trump, elegge dei personaggi tutto sommato simili a lui. Però a fronte di dimostrazioni di volgarità che possono essere accettate, ognuno si comporta come vuole, ma il fatto che sia stato uno scandalo sessuale di queste proporzioni, Lee Corfan, una delle ragazze, aveva 14 anni e lui ne aveva 32 quando c'è stata l'aggressione sessuale, le altre tre ragazze avevano 16, 17, 18 anni, dunque non c'è via di scampo da quello che ha fatto questo signore. Però il quadro politico americano cambia improvvisamente, perché se Moore si ritira, per Bannon sarebbe una sconfitta durissima. Questo significa rompere quella compagine che voleva mettere in piedi per le elezioni del 2018. Come andrà a finire? Bene, questa è la domanda da $1 milione, perché il candidato democratico è Doug Jones, ma non è molto popolare. E allora qual è la soluzione più logica? Ma nel momento in cui manca il candidato repubblicano, nel momento in cui il candidato democratico non raccoglie voti o comunque non è all'altezza, può toccare al governatore dello Stato nominare d'ufficio un senatore che rifletta il partito del seggio che era stato lasciato libero. E qual è la risposta che circola a Washington? Vedrete che sarà Jeff Sessions. In questo modo lascerà la carica del Dipartimento per la Giustizia, Donald Trump sarà contento di essersi liberato di lui e lui tornerà al Senato ad occupare un seggio che aveva perso per gli onori del Dipartimento per la Giustizia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, l'Alabama domina, l'Alabama, questo stato del sud, del profondo sud, sta spaccando il Partito Repubblicano, un Partito Repubblicano che abbiamo visto in tempi alterni ha dimostrato non poche fragilità. E dunque, di Lloyd Skinner, Sweet Home Alabama. Che tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.